dove gli angeli esitano. Incontri tra sacro e musica elettronica di Emanuele Pappalardo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Emanuele Pappalardo. Il titolo di queste trasmissioni è ripreso testualmente dal lavoro postumo di Gregory Bateson, Dove gli angeli esitano, pubblicato nel 1989. Bateson si era reso conto che l'unità della natura da lui asserita in un altro celebre suo libro, Mente e Natura, era comprensibile forse solo attraverso il genere di metafore cui ci ha abituato la religione. E capì anzi di essere ormai prossimo a quella dimensione integrale dell'esperienza cui dava il nome di sacro. Era un terreno al quale si avvicinava con grande circospezione, timore, trepidazione, sia perché era cresciuto in un ambiente familiare rigorosamente ateo, sia perché ravvisava nella religione un potenziale di manipolazione, di oscurantismo, nonché di divisione. Spesso è la parola stessa religione a scatenare da sola fraintendimenti. Il titolo di queste trasmissioni vuole esprimere la nostra esitazione davanti a interrogativi quanto mai complessi, attuali e nuovi. In questi incontri prenderemo in considerazione diversi modi di concretizzare possibili relazioni tra testi definiti dalla nostra cultura come sacri e musica elettronica, dove con l'espressione musica elettronica intendiamo riferirci a un universo quanto mai ampio di possibilità elaborative di qualunque evento sonoro. Quindi, tralasciando la consueta distinzione tra musica elettronica, ossia musica che utilizza solo suoni generati artificialmente da un calcolatore o oscillatori, distinzione, dicevo, tra musica elettronica e musica concreta, ossia musica che utilizza solo suoni presi dalla realtà, registrati e poi manipolati, ci occuperemo quindi di opere nelle quali testi sacri sono filtrati mediante l'uso della tecnologia. Quindi di opere che non necessariamente rimandano ad un loro possibile uso in ambito liturgico. Tuttavia ritengo sia importante affrontare, e lo affronteremo, il tema quanto mai complesso di una utilizzazione di brani appositamente composti per la celebrazione liturgica e che facciano uso della tecnologia. Ma cominciamo dunque con Gesang der Jugendliche, canto degli adolescenti, di Karlheinz Stockhausen, un lavoro del 1956, uno dei lavori che per la prima volta realizza nella nostra cultura occidentale in modo maturo una relazione tra testo tratto dalle sacre scritture, una elaborazione dello stesso testo attraverso le tecnologie analogiche dell'epoca e suoni elettronici, ossia generati artificialmente mediante oscillatori analogici. Singole sillabe e parole sono state estratte dal Canto dei Giovani nella Fornace Ardente, dal libro di Daniele, e ogni qualvolta il linguaggio emerge momentaneamente dal magma sonoro della musica, emerge per lodare Dio. Prima di dire qualcosa in più sul lavoro in questione, direi di procedere così. Vi presenterei il testo integrale in italiano dal quale Stockhausen ha preso il materiale testuale. Va detto che Stockhausen usa una traduzione in tedesco, e farei quindi seguire l'ascolto della parte iniziale del lavoro. Questo dunque è il testo. O voi tutte opere del Signore, lodate il Signore, lodatelo ed esaltatelo al di sopra di tutto, per sempre. O voi angeli del Signore, lodate il Signore. O voi cieli, lodate il Signore. O voi future acque che siete nei cieli, lodate il Signore. O voi tutti ospiti del Signore, lodate il Signore. O voi sole e luna, lodate il Signore. O voi stelle del cielo, lodate il Signore. O ciascuna pioggia e rugiada, lodate il Signore. O tutti voi venti, lodate il Signore. O voi fuoco e calore dell'estate, lodate il Signore. O tu, freddo, impervio inverno, loda il Signore. O voi, rugiada e tempeste e pioggia, lodate il Signore. O voi, ghiaccio e gelo, lodate il Signore. O voi, brine e neve, lodate il Signore. O voi, notti e giorni, lodate il Signore. O voi, luce e oscurità, lodate il Signore. O voi, fulmine e nuvole, lodate il Signore. Questa dunque la parte iniziale di Gesang der Jugendliche, lavoro per solo nastro magnetico del 1956 di Karl-Heinz Stockhausen. Il punto di partenza per la composizione elettronica Gesang der Jugendliche, ossia il canto degli adolescenti, il canto dei giovani, è stata l'idea di poter riconciliare i suoni cantati con quelli prodotti elettronicamente. E inoltre i suoni cantati avrebbero dovuto essere liberati, nelle intenzioni del compositore, dalle limitazioni fisiche imposte da qualunque cantante. Trovare una relazione tra suoni cantati e suoni elettronici ha costretto Stockhausen a inventare suoni elettronici molto più raffinati di quelli in uso fino ad allora. dal momento che i suoni del linguaggio cantato costituiscono probabilmente la più complessa delle strutture sonore, vista la loro ampia gamma che va dalle vocali alle consonanti, che in fondo sono puro rumore. Perciò una fusione di tutti i timbri usati all'interno di una famiglia di suoni può venire percepita solo se i suoni cantati possono sembrare suoni elettronici e i suoni elettronici possono sembrare suoni cantati. In certi punti della composizione i suoni cantati diventano parole intellegibili, in altri punti vengono usati puramente come suoni. E tra questi due estremi si trovano vari gradi di comprensibilità verbale. Essenzialmente il testo originale consiste di tre parole, Praiset, den Herrn, ossia loda il Signore, che vengono continuamente ripetute e legate a una enumerazione di ogni sorta di elementi, come abbiamo ascoltato poc'anzi dalla lettura del testo. Chiaramente questa enumerazione potrebbe continuare all'infinito o magari venire interrotta dopo il primo versetto, proprio come le frasi e le parole potrebbero venire permutate senza alterare il significato di base. Perciò il testo si presta particolarmente bene all'integrazione in un ordine strutturale puramente musicale senza dover tener conto della forma letteraria, del messaggio o di qualunque altro aspetto. Un punto altrettanto importante di questo nuovo modo di concepire il linguaggio musicale è che in questa composizione, per la prima volta, la direzione e il movimento dei suoni nello spazio vengono modellati dal musicista, dal compositore stesso, aprendo una nuova dimensione proprio all'esperienza musicale. Il Gesang der Jünglinge è stato cioè composto per cinque gruppi di altoparlanti che devono venire distribuiti nello spazio intorno agli ascoltatori. Voglio ricordare che il lavoro doveva essere inizialmente eseguito nella cattedrale di Colonia, ma che veti dell'epoca non consentirono la realizzazione di questo evento. È stato eseguito invece nel 2004 proprio in Italia, nel Duomo di Milano, presente l'autore Stockhausen su invito di Don Luigi Garbini. Ma con Garbini avremo modo di intrattenerci nei prossimi incontri. Dati questi riferimenti, pochi ma essenziali per inquadrare meglio il lavoro di Stockhausen, vi propongo allora l'ascolto di un'altra parte del brano che arriverà fino alla sua logica conclusione. Frosty, Kreist und Eis und Frost. Questo era Gesang der Jugendliche, il canto degli adolescenti, dei fanciulli, di Karlheinz Stockhausen, un lavoro del 1956 per solo nastro magnetico, concepito per essere diffuso da cinque altoparlanti e basato su un testo tratto dalle Sacre Scritture e per esattezza dal Canto dei Giovani nella Fornace di Daniele. Trattando delle possibili relazioni tra musica elettronica e sacro, era doveroso prendere avvio proprio dal lavoro di Stockhausen, anche se non si tratta di una composizione destinata alla liturgia. D'altra parte non sono molti i lavori che affrontino il complesso rapporto tra musica elettronica e liturgia, ossia lavori che vengano espressamente pensati per il rito e che si avvalgano delle possibilità offerte dalla tecnologia. Poiché questo nostro primo incontro è dedicato proprio ai primi tentativi di connubio tra sacro e musica elettronica, è d'obbligo prendere in considerazione una delle primissime realizzazioni di una messa elettronica. L'autore è Pierre Henry, uno straordinario sperimentatore musicista francese nato nel 27 e tuttora attivo. Harry realizza nel 67 la famosa Messa di Liverpool, un lavoro destinato alla consacrazione della cattedrale di Liverpool. La messa si articola in Gloria, Credo, Sanctus, Agnus e Communio, quindi una messa del tutto tradizionale. Ora ascolteremo la parte dell'Agnus. Il brano si presenta concepito su tre strati. Un primo fondo formato da un intreccio di suoni strumentali della più varia natura, registrati e poi manipolati. Un secondo strato formato da un intreccio vocale che rimanda a modalità di emissione vocale riferibili più che altro a culture che, in via del tutto provvisoria, definiremo genericamente orientali. E in primo piano abbiamo una sorta di cantillazione, a volte continua, a volte frammentata, del testo da parte di un solista. Questi tre strati a volte si presentano simultaneamente, totalmente o parzialmente, e a volte invece in giusta posizione. Quindi ascoltiamo dalla Messa di Liverpool di Pierre Henry l'Agnus. Saram ore pashem manus de hai long pashem essan hen hem kiwaem ere schwammen lam larm ele katamun donnen no pashem ewe frittin schwellelen moral sammesuaen Adam is a brother there, yeah. You are what we call it. A dung, hung, dung, gugging, evic, blavrev, amarai, das, sal, silver, flor, jamaïen, tantev, tante, evum, robe, arlang, rang, lang, dung, tolly. Oh, era l'Agnus Dei dalla Messa di Liverpool, un lavoro composto da Pierre Henry nel 1967. Come si è potuto ascoltare, siamo in un ambito concettuale, spirituale e musicale e del tutto diversi da quelli del lavoro di Stockhausen. Eppure accomuniamo questi due lavori molto diversi sotto la dicitura di musica sacra. Sarà lecito? Cioè basta avere un testo sacro per definire un brano musicale come sacro? Nella Chiesa Cattolica post-tridentina una composizione musicale è legittimata come sacra se ha un testo sacro, cioè un testo biblico o liturgico o della tradizione patristica. Non è concepibile una musica sacra senza un testo sacro. Ma oggi è sufficiente una tale definizione? Domande aperte. Vorrei concludere questo primo incontro citando poche righe tratte da La musica e la Bibbia, un testo di Pasquale Troia, nel quale l'autore affronta il complesso rapporto tra musica e sacro. Dice Troia: la sacralità oggi non è sentenziata da un magistero di sacralità e soprattutto non è più circoscritta nella ritualità del religioso ufficiale. Il privato oggi è ritenuto sacro quanto i valori comunemente riconosciuti. Il sacro quindi non è una colorazione che viene decisa dall'esterno, ma è quel comune, inspiegabile mistero di fascinazione, di arcano e di ineluttabile che rende una cosa unica, inalterabile, inviolabile. Così dunque si esprime Pasquale Troia, e forse queste parole ci riconducono per estensione a quella esitazione da cui eravamo partiti. Una esitazione densa di domande, interrogativi riguardo una tematica di difficile definizione e delimitazione qual è il sacro, e nel nostro specifico agli interrogativi riguardo un possibile rapporto tra musica elettronica e sacralità. Ringrazio per l'attenzione tutti gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima trasmissione.